Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. Via libera al rimpasto della Commissione europea con la promozione del tedesco Günther Oettinger al bilancio. L'estone ANSI prende almeno temporaneamente il dossier digitale che era di Oettinger in attesa che la Bulgaria nomini il sostituto di Kristalina Georgieva, la commissaria europea che va a fare il l'AD, l'amministratore delegato della Banca Mondiale a Washington. Il presidente Jean-Claude Juncker ha dunque annunciato la conferma del giro di poltrone e responsabilità all'ultimo collegio dei commissari dell'anno. In Italia invece negli ultimi 9 mesi il nostro paese ha cambiato passo nel selezionare i progetti che beneficiano dei fondi strutturali europei. Il tasso di selezione è balzato dal 4 al 14%, la media europea è il 20%. Si tratta dei progetti che quindi attingono al fondo di finanziamento per i cosiddetti fondi dello sviluppo regionale, il fondo sociale, coesione, sviluppo rurale e le attività marittime. Un tema importante, in ballo c'è una dotazione di 130 miliardi di euro, dei quali solo 11 sono stati spesi, 130 miliardi complessivi naturalmente per i 28, di cui 11 già spesi. La Commissione europea ha evidenziato oggi un problema persistente in termini di Stato di diritto in Polonia, concedendo a Varsavia 2 mesi per rispondere a ulteriori raccomandazioni sulla controversa riforma del Tribunale Costituzionale. Dopo le precedenti raccomandazioni, rimaste disattese, ha scritto Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione, ha detto: pensiamo che ci sia un problema persistente di Stato di diritto. La Siria e l'evacuazione da quel che rimane di Aleppo Est viene completata. Oggi è anche una giornata in cui si celebra le vittime di Aleppo e non solo di questi anni, ormai più di 5, di guerra in quello che era uno dei paesi più stabili da un certo punto di vista, non solo per la dittatura ma anche economicamente, del Medio Oriente. Il servizio. Una coperta, simbolo di calore umano e di protezione per dire basta al massacro di civili in Siria. UNICEF lancia per oggi una mobilitazione pubblica. L'appuntamento è a Roma, Piazza del Popolo, alle 11. Chiediamo a tutti di venire, ha detto il portavoce Andrea Iacomini, e di portare come gesto simbolico una coperta e a coloro che non riescono a venire di esporla sui balconi delle case. Tutto questo mentre il conflitto in Siria entra nel suo 6° anno di ferocia. Ma l'impressione è che per l'Europa sulla questione Siria la coperta sia ormai troppo corta. Durante l'ultima seduta plenaria all'Europarlamento di Strasburgo, i deputati hanno parlato per Aleppo di inferno in terra e di collasso dell'umanità. Ma alle parole non sono seguiti i fatti. Bruxelles continua a macinare i suoi stanchi riti, con consigli europei sui migranti che nessuno vuole accogliere e vertici che si concludono puntualmente con un nulla di fatto. Era febbraio quando, a Monaco, in un vertice internazionale si discuteva del destino della Siria. Il documento finale parlava di cessazione delle ostilità entro una settimana. Sono passati 10 mesi e lo scenario è completamente mutato. In questi giorni un vertice per decidere il futuro della Siria si è tenuto a Mosca, con la partecipazione della Turchia e dell'Iran. L'Europa non è neppure stata presa in considerazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, cari ascoltatori, con questo è tutto per questa edizione. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Naturalmente tutti gli aggiornamenti di tutte le notizie nei GR24 che seguiranno. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.